certo, ci mancherebbe altro, io sono qua in ascolto. Forse non mi sente nessuno con questa antenna. Noi dobbiamo stare solo nel 20, no? Ma che complice? Sto sempre con il 10 io. Usiamo il 20 per non usare il 23, ma il canale monitor è sempre il 10, ricordatevelo. K-K. B. 1 e 3. Stiamo volando il bu. E come mai 1 e 3? Questa ho messo la Game Master su perché l'altra ne l'ho scesa per fare la revisione, capito? Non hai visto in che condizioni era dopo quegli anni sul tetto. Già l'ho visto il video, l'ho visto sì il video. No, io sono troppo attorno alla TV e sto ascoltando i 40 anni. Si è messo un vento, capito? Ma come non ha giocato l'antenna? Ha giocato il Eurovision minore. Il vento si è alzato adesso. Babù. E Luca allora? Eravamo in chat sul gruppo PMR 10 minuti fa. No, ho capito. Va bene. Segnalò in 40 anni, se riambava la propagazione. 9.25, 9.30, 9.20, senza correttore, cioè senza amplificatore. Adesso è Reggio Calabria, 9.25, non facevo gas. Niente, il segnale è sempre buono, ecco, guarda a vedere con questa qua di antenna. Sì, sempre buono, ottimo. Poco a 9.30 manca, forse quella va qualcosa in più, ma poca differenza, sono di poco, c'è io per i 40, no? Che regge forte, tomba alto, capito? E devo fare anche quello, sollevare le punte, però lì devo lavorare in facciata e non ci vuole vento. Devo aggiungere due tubi, tirarlo ancora più su, perché adesso può essere tirato bene, capito? Prima non toccava le antenne. Quello vuole alzare, troppo basso, cazzo, a 1,70, troppo basso. Ma gli ho lasciato così lui, perché quando giravo la 3 elementi toccava, capito? Non faceva tutto il giro, l'ho abbassato per dritto, l'avevamo abbassato assieme anche una volta. Adesso che non ci sono più le direttive, lo tiro su come era prima, e prima era un bel alto. Sollevo il centrale a 4 metri e le punte la metto a 4 metri, cioè praticamente i telescopici che ci sono bassi, devo tirare su tutti e due i telescopici, sono due elementi solo, devo tirare il terzo elemento. Beh, una comodità, se hai messo i telescopici ai lati, è una comodità sì. Allora, tutti e due i telescopici ci sono fini, sono due telescopici da antenna TV, ma non è che fanno forza, devono mantenere i bracci e basta, capito? E poi in centrale devo sollevare un elemento, ce n'è uno solo sollevato, e così rimane tutto in piano alto, capito? L'avevo abbassato anche perché avevo agganciato gli anelli degli 80 metri, quindi adesso è tutto agganciato, lo tiro su. E ci vuole una giornata bella, non ci vuole. Stamattina ho trovato un'oretta buona, sono salito e l'ho tirato su già quella del PMR. Adesso devo fare un lavoretto per la Mantova, aggiungere gli altri due tubi e tirare su anche la Mantova. E poi mi faccio di po' un po' la volta, là, intanto adesso già tutto pulito e ordinato. Ok, vabbè, adesso è tutto ordinato, sì. Grazie, allora. Sono stata mattina, passata la scopa su, ho raccolto tutta la roba che c'era. Ho iniziato a smontarmi i tre elementi della direttiva, capito? Ho messo tutte le fascette nuove, ho eliminato i cavi che non servivano, tutto pulito, quel fascione che era in terra, pulito. Ho tolto tutti i cavi elettrici, tutto sfascettato, pulito, messo le fascette nuove, controllati gli ancoraggi. Non ho fatto tutta di pulizia, da un paio d'ore sono rimasto come sono sceso. Va bene, va bene. Ugariello. Ma che gendi, va? Ah, ma che gendi? Vabbè, dove questa ora inizia a morsicare? Sono di 7:30. Alle 7:30 vale, ma di buono che incontri. Ah no, bodybuilder. KK. Ma, non so così. Speriamo, rinforzare il sergente, capito? Chi non sta chiamando più male le bucchie? Fai pagare che peppa. Oh, non ho sentito. Oh, Manuele, dire che siamo a 10. Io ormai la mano mi sente perché la senza segnale. Ma che cosa vuoi portatino? Sei vicino. Dire che siamo qua. No, io ho sentito solo a te. Capito? Quando hai risposto in PMR. Sono col gommino, ma Manuele già lo sento. Se usa la lanterna esterna. No, non sto usando lanterna esterna. Sono le bombe forti. Sto usando sicuramente il gommino. Sei magone per forza. Infatti, è un magone sci. Ah, ti stavo dicendo, ho telefonato, aspetta che abbasso di HF, non mi piace far sentire. Ho telefonato ad un amico. Allora sì, sono telefonato, beh. Capito, a Marco. E già si trovano anche a 30, 50 euro, non di più. Quella roba che ti ho detto. Quanto qua? 30 euro, 50 euro, non di più, soprattutto quando mettono pezzi, perché sai cosa fanno per guadagnarci di più, no? Li mettono tutti a pezzi, ma controlla, anche ultimamente noi abbiamo preso dei pezzi per fare la riparazione proprio di quella radio lì. Abbiamo preso tutte le schede unit e tutte queste cose così, abbiamo preso una fesseria. Dice, stai attento, se lo vendono a pezzi, ce n'era uno da poco, che a noi non ci interessava, perché non avevamo riparazioni di quella radio, se lo sapevamo l'abbiamo preso, 50 euro. Già, adesso do un'occhiata io. Sì, metto, stai attento, quando, perché a volte ci sono, vendono tutti a pezzi, capito? Per pezzi di ricambio, non vendono tutti i pezzi. E conviene, capito? Perché se ne compri una intera per pezzi di ricambio te la fanno pagare un sacco di soldi. Se invece compri a pezzi così, loro ci guadagnano di più e vendono a pezzi. Certo. Beh, ho attaccato l'esterno, vediamo un po' se c'è qualcuno. Se c'è qualcuno là. Io già ci sono. Come il vento si è messo? Vento freddo bue. Ma io ho già tirato su la 510, adesso vediamo quando mi portano il rosmetro. Io. Non devo fare quel lavoro, tanto sono andato qua. Aumentare di due elementi, però devo fare prima un altro tipo di lavoro, devo cambiare il piantone perché i due piantoni di innesto sono tutti e tre uguali, quindi non innestano, allora devo togliere quel piantone che ho grosso o mettere quello e poi fare gli innesti, capito? Quello da due pollici, perché gli altri sono tutti da un pollice e mezzo, se no non innestano. Sto guardando, aspetta, vediamo un po', allora in Italia perlomeno qua non c'è niente, all'estero. È all'estero, mi ha detto di guardare, ma io ho un gas di computer, infatti adesso lo smonto, lo allunga e si arrangia, e me ne prendo uno nuovo di quelli portatili. Sì, a fine, però, proprio visto. Ci sto guardando se c'è, ma mi sa che non viene. Mi ha detto che è un pezzo rarissimo, infatti l'ho spiegato il problema, ma ha detto, ma non è detto che perché manca un ventino non cammini, ma è proprio darsi che ci sia qualche altra fesseria. Capito? Mi ha detto anche che se praticamente arriva la corrente e lui gira piano piano, può essere che sia anche qualche resistenza, qualche non so come è andato. È quello, tu infatti cosa ti ho detto io? Ma tu ti fidi a scrivere così? Io no, perché se poi non è quello, c'è molto di più, capito? Bisogna scrivere solo quello che è in realtà, poi aspettavo lo decide. Infatti ti ho risposto, tecnicamente bisognerebbe fare un check-up per vedere esattamente se è quello. Se è quello, allora conviene cazzo comprarlo, se un condensatore, una resistenza cambia, cazzo con desiderio vai lì. Mi accendi la gaganella. Andiamo, andiamo, cazzo! Vabbè, ma cosa c'è? Le mandibole funzionano? No, ho fatto merenda adesso, questa di torta che è rimasta un pezzo. Da ieri è un gelato che sono mangiato, basta per oggi. Non è nulla, non te c'è. Ho fatto di torta e un gelato, per oggi. Allora, se la fate, se non trummi tu fate magnete. Aspetta, vero là, io la scusate. Aspetta, cosa resta? Allora, scusate, due secondi, vediamo. Esce, vedete? No, picca, ti dà che la rimani, so. Ah, sono 2:30. Sì, ma stai arrivando bene qua, quasi 9, sì. Cazzo, ieri ha provato il bombolino, ha tirato su quella bumera. Cazzo, mi arriva 9:15 liscio e più di 9:20 attaccato. La boomerang, la storm! No, no, Antonio c'ha la boomerang. Ha la boomerang che ha messo. Mi ha mandato anche le foto. Cazzo, bovere di voti. La boomerang è quella grande, c'ha. Sì, un bel forte mi arriva. Un bel forte. Mi arriva, ho detto, 9:15 liscio con 4 watt. E quando attacca mi arriva più di 9:20. Cioè, no, vuoi provare di ieri, dai. Cosa? Che abbiamo quel problema di ieri? Ma chi tu? Con le scariche. Che cazzo è che le scariche? Boh. Non sto manco piovendo. Io sì, c'ho un po' di QRM, ma leggero. Che malafacca, boh, se mi so. Non è qualcuno che ti disturba lì, che c'ha qualche condizionatore, qualcosa. Boh. No, Flipper, può essere qualche condizionatore lì, siccome lì c'è l'antenna nel poggiolo, qualche motore di condizionatore, no? Infatti è molto strana la cosa. Questo muoio, se ne va e torna. Poi c'è un motore inverter lì di qualche condizionatore. Ma non può essere lui, perché guarda, io noto come sono, quando mi sbatto uscire i rumori subito prende. Però c'ho QRM2, Santiago 2 in tutte le radio. Cosa mi ti dica? Ma sono abbassato di segnale, sempre uguale. No, sempre uguale, sì, qua già va bene. Quasi 9, 6, 8, va. Anche tu sei 8 spaccato. Vedi, quindi ti arrivo come mi arrivi tu. Ma c'è Luca, vabbè, a fondo scala. Certo, Claudio, già da dito, spaccato, bubù. Tu sei spaccato. Nell'ano. Luca spaccato. Luca spaccato, Bruco. Oh, beh, lui ci sarà rimasto di volte docce, lui è uno, ma scala, lo conosci. Venera qua c'era di mattina, ma si dice. Tu vuoi fare un capo, un nivello un capo, perché sono 3 antenni. E un animatore è quello, è mezzo roscio, occhio. Dove c'è il campo? Ma c'è Luca. Ah, no, un animatore è quello. Ma che campo? Ma quel cane, io non conosco, ma che campo stai parlando? Cazzo, cazzo, mi sono capolato i nostri, quindi sono sai. E chi vi ha tenuto capo è Belluca. Di fronte c'è un redamatore lì, lui si chiama Zubroscio. Non lo conosco, io lo conosco, no, non lo che fa. Lo tu lo conosci tu? Già si vede che è frufru. Che abbiamo molto massimo. Allora, qua sto contattando uno, mi sta dando una risposta. Allora, no, l'ha già venduto. Uno ne avevo trovato e uno ne ha già venduto. Vedi, già si trova. Insomma, l'ha detto Marco, quello che c'è, sono detto, stai attento perché già lo trovi, se lo cerchi lo trovi e non lo paghi più di 50 euro, ma detto di quello lì, sono 4 vizi, una cazzata, 2 spinotti e li metti quello nuovo. Ma non ce n'è altro, aspetta, continuiamo a farci. L'altro giorno ce n'era uno, Maria, a Bettella, ce n'era uno tutto appesi. C'era un bello interessante, manopole, monopoline, tasti, tastini, frontalino, nuovo, nuovo, c'era frequenzimetro, tutto, poi c'era la scheda unit, tutti i filtri, un bello roba c'era. Io sto dando un'occhiata, su eBay non ne ho trovato. Su eBay ci sono tanti pezzi, ma non quelli. No, su eBay non lo trovi, ma devi guardare su siti autoricambi, una cosa del genere, mi ha detto buco. Peccato, se non avessi telefonato prima, noi eravamo in contatto con uno, a volte ci chiamano se servono pezzi, capito? E abbiamo preso un bel di roba, magari aveva anche l'accordatore, l'avremmo preso. Vediamo un po', questo è sempre quello di prima, che l'ha già venduto. Certo, non lascia perdo, mi vedo avvisato da voi, se no già avrei preso al volo. Andiamo, cazzo! Cos'è lui se ha avuto mai mandato? Un pezzo da duccia? Ah, Lugariere, cos'è stato la torta che hai mangiato? No, tra lei, ti pare cucchiao, Ah, ho un cazzo, sono soffiato. Ah, sì, sto leggendo. È buono, buono. Siamo, sì. Che se non si abbaccia, ma che grande è meglio. Vanno per più tu sai deve andare a Rosarito. Sta parlando di una fogna. Gesù, grazie. Tu dove sei? Beh. Luca, cosa è là? Questi invece di venire di qua, tutto di sono di là si muove in bocca. No. Allora prova a dormire a vedere. Ehi, astro, che c'è? Ah, famone! Allora, Fede, lo guttiamo, se anche noi una rega mustaccioli, si rimagna, non c'è di che vabbè da dolce, salato, dolce, gabbana. A te piace i mustaccioli? No. Non ti piacciono? Solo poco. Che sono fatto la bocca bene? Sì, che andai 7:30, di più. Oh, iaia. Andiamo. Come so? È prodotto per niente. Bello quell'anello, è molto bello. Regalato, Marina. No, ma ti faccio su Facebook, bello, no, come l'anello, bello. Bello, sì. Ma vedi, nella vita cosa c'ha? La ricotta. Bello, cazzo, ma dei buoni, di bello. No, quello che usa, prepara la mucca e la ricotta. Ma sono lunghi, io vengo buoni lì di tutti i bicchieri oggi. Cazzo, ma sono un attore di nero di viti, non so che c'è il pingolo, cos'è, cazzo, c'è una cattura. Sei lì di che dammi il goloccio, cazzo. Pingotta mai. Ah, va. Quello mi pensava i sciara che è sparaglione. Oh, ragazzi, forza via. Come sto? C'è una preparazione di 40 metri. Sicuramente, ma c'è in vendita l'avevi lui. Poi che parli sempre, mi dici dove parli sempre, di parli sempre. C'è un computer, Flipper. Cazzo, mi ho fatto la misurazione dei pali, mi sciugasse un po' grazie alla mantova. No, capito qua. Aspetta, sì, no. Io sono 7127. Quello ti ho fatto sentire io. Arrivavo forte, sì. No, forte. Vabbè, io ho l'antenna. Ma segnale con 756 e 925, 920, 925, con l'altra radio è 920, lo stesso 925. Ma ce l'ha detto rispetto, cazzo, stai impazzendo, cazzo, mi ha punta, lascia un bel forte, alta propagazione. Cioè, c'è Badaviccio, ecco la fuffia. Cazzo, stai vendendo, Ghiccio? Chi tu vero? Vendendi? No. 208 euro, più $20 di spedizione. Cosa non ho capito? No, accordatore. Quanto? Più zanchiero, più a 6, a 30 di spedizione. Vai a mangiarci io, vai. Cioè, non capisco questa gente come faccia a vendere una cosa del genere a quel prezzo, cazzo. Tendo un pregio a radio completa. No, infatti l'unica è la città che non manca la cacchetuna in Italia. Capito? Che sciocchezza. Ma voi devi vendere, ma se non sai vendere, cosa cazzo vendi? Se tu consigli la T250, la trovi a 150 euro. La T250 con rotore di linea, capite? Che si dice che è Drento, che è un pacchetto di sigarette, volumi minori, 200 euro, ma non tenna. Ritorniamo al discorso di prima, che ognuno ognuno vende a quanto vuole vendere, anche sapendo che non, a quel prezzo non venderà mai, però dice lo voglio così. Allora, udite, ho detto da un gas. Sì, ma infatti ne abbiamo già parlato, quindi non c'è stare a continuare a parlare. Ognuno aveva la bassone e fa quello che vuole, ma poi come vedi rimane lì, invenduto. Okay. Devi sempre conteggiare la perdita, altrimenti non ho che puoi vendere a prezzo pieno, non te ne compra nessuno. Quello è il casino. Tu devi trovare anche se si guasta qualcuno che te lo ripari, a chi lui ha, se sono rifiutando di tutti di qualche radio, insomma, da tarde. E aspetta, faccio una telefonata, vediamo un po'. Scusate, ma perché cazzo mi stai riempiendo il telefono di tuo PMR? Cioè, cazzo ci conviene? Ah, metti di nuovo, che cazzo! Non mi riempire il telefono di PMR, Bobbiamo mica a me da PMR. Ah, sono io tu a Luca, boh. Stai mandando a me, non a Luca. Eh? A me li stai mandando, non a Luca. C'è un gruppo. Io non ci sono nel gruppo. Io tu a Luca siamo, boh. Ma mandi tutta questa cagata, boh. Ti si conti, ma abbiamo il telefono. Che cazzo. Ah, te ne andiamo a mandare a me le cose. Bobbiamo mica a un gruppo. Siamo detto a Luca. Scommettiamo lì. Ho capito, ma cazzo, scrivi, manda qualcuno, mi manda a cazzo tutti questi gaggati, cos'è questa cosa? E il gol, ghignarma, eh. Una mossa delle balle, cazzo. Gappa, gappa. Cosa vuoi? Ma quindi tu te la compri sto cazzo il numero oppure no? Palla. Falla. Palla. Capitano cazzo, boh. Fa un passaggio. Faccio un passaggio. Che passaggio lo fai? Non mi guardi nessuno come passaggio. Se non fai la biglietta manco lo drampo, ragazzi. Quello è un video qua. Andiamo. Ma ti direi appoggiato il suo baracchino, non te lo devo del mare. Ma fa un comodino qua. Se fa il comodino. Se fa il comodino. Ecco, visto. Sopra il comodino. Già tutti i bindari sono appiccati. Ma ho capito. Tutti quei bindari sono appesi, cosa sono? Boh. Ma c'ho fiori, cosa c'ho? Attaccato all'armadio, cos'è? Boh, la prima mattina l'avevo attaccato, non lo so. Tipo, insomma, finta, là, pupazzi, là. Pupazzi. Va bene. Flipper, cosa c'è come niente? Flipper. Andiamo. E scura noi, sì. Comunque, in che frequenza siete? 7000. Non capisco, cosa hai detto? In che frequenza siete? Sono a parte. Quanto faccio? C'è mio, ma che volta c'è un'altra frequenza? No, intendo in ascolto. No, io sono in 40 metri, ho un po' le cassa accese che da tanto che non le accendo. Luca, non so, vabbè. Luca, Ariello? Ah, sto per una potenza, ci arrivi? Da in picco. Mi stai ascoltando Olu? No, forte e chiaro. Forte e chiasso. Forte e chiasso. Ehi. antenna, la migliore antenna da terrazzo o tetto, omnidirezionale per CB, e uno ha scritto la Storm 27. Storm 27, chi sei va giù io? La Storm 27 è quella che c'è tu. No, non è quella che c'è tu. Ma qual è la Storm 27, bu? Non so. Non è come quella che c'è Marco, bu. Adesso ti mando una foto, aspetta, qua. Una manata, Lucca. Bellina, eh. Fatto uno screenshot. Della Storm 27. Manda, ma aspetta che sto regolando. Oh, eccolo qua. Facciamo così. Bello. Ma cos'è? PMR? Ah. Che fumo è? Ma che manetto. Ah, boh. Sì, ce li ho quelli dentro l'armadio già. Fatto manco di uso. Si chiama ultima versione THIYT TH2008, è un quadro in banda. Ah, 2008, non l'avevo letto. È ottima radio quella, non va bene. Ma io sto provando un molto portatile. Sì, ma fatti i botti, se ti conviene portatile o comprarti un veicolare. Sono vero, lo sai come caricare la batteria. Cosa hai detto? Ho detto che devo stare sempre a caricare la batteria, non è che... Io sto parlando per il prezzo, capito? Per dire, se vai a comprare un Motion che costa 100 euro, fa 50 euro in più, trovi una radio del genere, no? Ma, cioè, senza dubbio. Ci puoi comprare Gio Bofeng e allora paghi 30 euro, fa un'altra Cuba, capito? Però se vai a comprare un portatile serio, ti costa sempre quei 100 euro, alla fine ti conviene comprare un veicolare, no? Esatto. Attento a questi giochi di carruzza, no? Cosa hai visto? Cazzo, è diventando una gumba. No, vabbè, quella lì costa 152 euro, spedita. E tu cosa capisci? Quando vai a comprare un Voxion lo paghi 120 euro, mi porta a dire, non è che lo paghi un Voxion serio. Non è buccia di gioia. Cazzo, quello che c'ho io, i portatili costavano 150 euro l'uno. Capito? Quindi, però a me mi servono quelli, quel tipo di portatile. Però, visto questa foto, quando tu vai a comprare il portatile a 100 euro, ma 52 euro in più, va una radioseria, no? Ah, beh, senza dubbio. Beh, ma mi dico una più tratta, va. Capito? Così è, Lugaria. Ma lasciarlo di qua. Sì, Lugas. Devo segnare che revende, a parte questo lavoro, devo segnare che revende in 40 metri di ciò, 7127. Allucinante. No, è 9.10, 9.5, 9.10. Un attimo, io frizzati, su un frigo, non è per cavè. No, che revende 9.10. Minchia, papà. Sì, è forte, ma hai tu. Andiamo, 20 pieno sta arrivando. Senza l'amplificato l'antenna, bravo per l'antenna, arrivino per 40. Attenzione, Claudio. Allora. Ciao, Gianfranco. Ma c'era qualcuno che stava cercando qualche apparato veicolare, per caso? Cosa? C'è qualcuno che cercava un apparato veicolare? Di banda, no, non a quel prezzo. Ah, di quelli da 13, ho fatto. No, perché se poi ce l'ho uno, prima che lo spedisca, volevo vedere se c'era qualcuno che era interessato. Tutto lì. Comunque, per la cronaca, è un DMR, che, quindi di banda, DMR, è stato già di banda. Mi auguro, praticamente, è ancora nella scatola. Come me l'hanno mandato due. Uno lo sto tenendo io, l'altro sto dando. Era giusto per Ciao Gianfranco. interessa a me. Voi sta provando come voi. Manda al posto, poi lo vedrai com'è. Guarda, lo vedi come di Aglobe. Sto valutando a T di 578 Vitra. Esattamente all'ultimo farmac che ho fatto. Dalla cifra che vedi fa tutto di recente, perché praticamente è nuovo, è riscatto da tutto quanto. Ma non ti capisco bene, se io ti occupo del radio non capisco la massa di quello che dici. Forse perché sono un po' lontano. Ho detto che se guardi su un media globe, lo vedi, si chiama ATD578UV. Però tu lo capisci? Quasi, sì, ma sto facendo malissimo, molto cupo. Allora, già che hai detto togli 100 euro, Luca voleva pagare 70. Cosa lo vedo, Luca non ti capisco Gianfra, ha detto atti? Ah, ecco, ho provato, un attimino me ne sta uscendo il microfono e cambia apparato, si è sentato il filo. No, si capisce la massa di quello che dici. Lo capisco io, Flaccio, capisci tu. Ho capito a T, che lo vedi su Media Globe, e dal prezzo che c'è su Media Globe ti può togliere 100 euro. Ed è nuovo dentro la scatola, mai usato. Allora, Media Globe, Media... Aspetta, lo dico, poi mi vediamo il modello. Eccomi, si era sganciato su quello, si è sganciato il capo, dove sta adesso che è tutto sbucciato. Adesso mi senti, sì? Adesso sì, tu poco fa sembravi, non capivo niente neanche io. Ripeti, come si chiama questa radio? AT? Hamiltone AT di 578 Vpro. È digitale, FM normale, fa anche da ripetitore, poi usaccia, poi non me ne ricordo, insomma. Comunque guarda, su Media Globe lo vedi, dai. Hai copiato? Fai prima a dirgli il prezzo, Gianfra, e così ti sa dire sì o no direttamente. Guarda, allora, il prezzo tuo è, che Media Globe è il mano caro, 363, è nuovo rispetto in scatola, lo posso dare 2,50, proprio è il prezzo che mi fa Media Globe e questo momento. L'ho visto, hai tono, sì, no, non mi piace così, è più carino quello là, lui, quello che mi ha mandato tu, ah, c'è un abisso, più carino, più bello, rimane più basso, no, non mi piace così Gianfra, grazie per la radio, ma non mi piace come radio. Ehi, tieni presente che questo è anche digitale, quindi il prezzo è così perché, cioè anzi, qua è abbastanza economico, gli altri lo stanno dando visto a 400 e qualcosa. Comunque va bene, non c'è problema, solo per dirlo perché avevo capito che c'era qualcuno cercando. Ok, riprendi Claudio. Sì, ci stanno tutti cercando, ma non è stato baratto quel prezzo. Non è possibile, capito? Anche perché è un uso PMR praticamente, giusto per ascoltare qualcosa. Va bene. Niente trovato, non c'è nulla. Allora, mandate, quello è molto carino, bello. Quanto pare quello è un quadribanda, bellino, costa 152 euro. Quadribanda, sarà bibanda, cazzo quadribanda. Oh Luca, quadribanda hai letto tu. Aspetta un attimo, allora, vediamo il messaggio di Luca, aspetta. Ma qual è di quelli da 13? Di quelli super economici? C'è scritto Cla. TYTH 9008 Quad Band Mobile Transceiver AMFM 2950 144 430 ma anche la 27 MHz. Eia. Cioè, mi ricordo che era quad in banda. Ma poi è stato già, l'ho già usato pure qua, di che l'ha avuto. Capito? Funziona bene, funziona veramente bene. 50 watt massimo di potenza. Auto radio 50 watt max, mobile radio di comunicazione senza fili citofono. Non capito questo senza fili citofono, comunque vabbè. E vabbè, come traducono lui, capite? Come traducono? Come scrivono? Fa 29, 50, 144 e 430. Comunque molto molto bella, te ci curiosiamo la radio, bella, bella, bella, sì. 152 euro spedizione gratuita, non so quanto ci mette. Ma confermi che è il 9008, PH 9008? Sì. Occhio che se lo prendi da fuori passa in dogana, e quindi il prezzo non è quello che vedi, capito? Si fa arrivare da fuori. L'ho già acquistato, già fra. Si arriva da fuori, passa in dogana, quello lì, quando tu per un certo prezzo poi paghi l'IVA. No, no, è già stato acquistato, è arrivato, non abbiamo pagato niente, capito? Ah, boh. Sembra strano. Anche perché lo specificano, però me lo sto guardando cose. Non ricordo cosa sì. Poi ce l'ho a 200 qua in dollari, comunque. No, io sto guardando in euro. 152,79. 156 spedizione gratuita. No, è già stato acquistato questo qua e funziona bene, capito? Funziona bene come dappertutto, dai. KK, avanti qua. Sì, se funziona bene è il prezzo ultimo, è aspettato. Ah, forse è questo, 199 euro. Su eBay. Aspetta, mia propagazione, la senti qua? Andiamo, andiamo. Ma li sentite questi in propagazione? No, io no, non c'ho antenna. Capa, ieri notte c'era il Brasile S9. Muoi propagazione, muoi propagazione. No, no, ho chiesto anche a Roma Radio, niente, non ne hanno neanche loro. Greg? Non hai praticamente... vabbè. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Vedi, fatto un break avanti. Buonasera a tutti. Diane di più lunga. Ciao a tutti quanti. Avanti Luca, riprendi tu e poi fai girare. Ciao Gian, beh, avanti tu. Ciao Gian, avanti Gianfra. Ciao Gianni, mi ha ascoltato. Riprendi Claudio. Via, via. Che microfono stai usando già? Il DM1000. Come mai non c'è a tutti, solo bassi? Così meglio qua, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beh, un po' meglio. Non si sentono gli acuti, si sente solo i bassi. È meglio per finire. Prova antenna. Va bene. Sì, vabbè, sto usando l'intech, la stazione base, magari anche la parecchia, non lo so. E ieri mi ha fatto vedere un po' di tempo, c'è un microfono, cazzo, sette collegamenti che ho dovuto fare, mi sono bruciato due video, oi. Io ho fatto Luca, mi ha fatto lui il MB5 per il Noit. Se mi metto anch'io mi brucio le dita, non ci vedo più un cazzo, niente. Sì, ogni volta che chiuso il saldatore mancabilmente mi devo bruciare. Mi frega sempre perché che lo prendo magari troppo in avanti, no, dove c'è la parte di ferro, cazzo. Ogni volta mi brucio. No, io, beh, tutti brucio le dita, io proprio riesco a saldare perché non ci vedo. Quindi la tua Luca mi ha messo il connettore nuovo, tutto. Avanti, non riprendi. Attimo. Vai, Gianfra. Beh, già. Io capita che mi brucio, non così, come dici tu, però brucio scarpe, brucio... mi sono bruciato la parte frontale della cassa, c'è una cassa che ho messo a casa, nel baracchino. Me l'ho bruciata. Insomma, tante cose ho bruciato. E adesso già non mi frega più, perché ho comprato il coso per appoggiarlo, il saldatore, e lo appoggio lì, se no prima mi cadeva in terra, magari in terra c'è altra roba, tipo io di bussolina, il materassino di terra, l'ho dovuto cambiare a chiudere più bucati. Perché se non saldatore ci vuole portare saldatore, io ce l'ho, c'è ancora quello che mi avevi dato tu, figurati. ci vuole il portasaldatore, già. Se no, cazzo ve lo appoggi. Lo appoggiamo sul tavolo, ma la volta è rotola, quindi va in terra, e magari ti brucia. A volte se cade i pantaloni, ti brucia i pantaloni, se non ti brucia burulare. Ci vuole il portasaldatore, con lo scalda. Io ce l'ho, lo metto dentro il portasaldatore, c'ho anche la... a fare la spugnettina per pulire la punta, capito? È tipo un'unità saldante, dai. No, non ci vedo, cosa è? Non te lo direi che andrò a vedere. Altre saldature sì, PL, queste cose, ma non mi dice da connettori. Ho detto, va a Luca e me l'ha fatto lui nel MP5. Gianfra. Mi dica tu. Dimmi qualcosa, io parla. No, stavo cercando di rifiutare quello spinotto malefico di quella vecchia e mi sono passato lì. Posso dirti, chi sei voi? Perché quella plug in plastica, no, tra l'altro è uno standard che è un po' strano a sei pin, quindi è un po' quelli dal telefono. Ah, mamma mia, li odio quei cosi, cazzo, per carità. Anche io li odio, mamma mia. Se ci vuole la macchinetta, ma... Beh, io ce l'ho. Ce l'ho per tutti i cosi, come tutti. Cazzo, e anche quell'apparato che mi avevate fatto vedere, quello della prima. Quello è bellino. L'unica cosa che c'è, che c'è attacco che non mi piace. Mamma mia. Perché è un casino ogni volta che devi cambiare il microfono, il notte, il coso. Come fai se non c'hai la macchinetta? Tu ce l'hai, vabbè, ma non c'è lui. Io vado molto anche per il caso di rete, quindi ce l'ho, mi serve. Come anche quella per clippare i cosi, i, come si chiamano, i DNC. Ma sono costose quelle macchinette? No, 5 euro sarà, tu? Allora è una cosa che sì, che è fattibile. Però hanno fatto una correzione un bel sala, anche gli apparati radioamatoriali, che ti piacciono, se le conosci. Ma stanno comparando, io ho l'apparato amatoriale, certo c'hanno tutti il connettore 8. Non è ovvio di... Addirittura quando avevo preso il 706, che ha la stessa connessione così, mi avevo fatto mandare dalla ICOM il l'adattatore, quindi avevo tolto quello e c'era l'adattatore 8. Una gaggata su cosa, non puoi usare nessun microfono. No, chi l'ha detto? Io ho quello professionale, ho quel connettore, ed è facilissimo, faccio così. Capito, ma se io devo usare il microfono normale, cos'è? Allora mi avevo fatto mandare l'adattatore per il 706, da, era clippato, poi c'era il connettore agganciato a 8 femmina, capito? E attaccavo l'SM20, sono una cagata. Non ci sei buono affatto, non l'ha fatto, se bisogna fare lo stesso. No, ho comprato l'originale già fatto della ICOM. Ce l'ho la clippatrice, ma non l'ho mai usata, non ho mai fatto di connettori, capito? L'avevo prestata una volta, non mi ricordo a chi, proprio per farsi connettore, ma io non ne ho radio con quel tipo di cose. Sono tutti a 8, a 8, ICOM, che vuol dire ISO, tutti a 8. Gaffa, io l'ho presa e mi ho fatto appunto il microfono all'ICOM, il 60 col 706. In più ho comprato anche una decina di connettori di RG. Vabbè, non sono scemo. Sì, io non ho risposto perché sotto c'è questa gente che parla. Quindi c'è una bellissima preparazione. Sì, non so se c'è preparazione. Sto ascoltando in 40, in 20, in 15, cosa facciamo tutti 8, 9, 20, 9, 15, 9, 30. Non è che vado tutto, la verità, ho fatto scaldare un po' le radio, ok, credo, il resto aspetto tutto. Se no, non ci capisco più un cazzo. Questa roba, viaggia. E anche a 102 arrivano forte qua. Sì, 102, 115, 140, 100... e sto pieno. No, lo spento. Sto guardando lì, facendo, aspetta, cioè, gli HF, provo io baracchini e sintonia continua, questo, l'altro, l'altro ancora, c'è 3K, ci ho accesi, e poi c'ho il 275H acceso e l'altro UHF, il 780. Gli altri sono tutti spenti, se no da lì accende a fare. Cosa? Ah? A chi è questo? Allora, tenete, vieni in mira. Ho detto, ma non lo sentite che lo sta parlando sotto, dove c'è propagazione? No, io c'ho molto QRM, QRM, c'è QRM, un bel QRM. No, io c'ho QRM a 2, 2, 2 e mezzo, 3, non di più. C'ho tutte 3 K. Invece sugli altri HF un po' di più, vabbè, lì sono le antenne specifiche, quindi. Ma a volte dipende anche dall'apparato, c'è quello che apparato e non ne sento niente, tipo il MIDI, il Galaxy, ma sento il QRM con il Galaxy, è proprio perfetto. Beh, chiaro, sono radio più selettive e quindi senti meno. No, i K miei sono tre uguali, mentre il con Maria Eso c'è un po' di differenza, ma ci sono le antenne diverse, capito? Tu è lui, non hai trovato niente? No, ho chiesto anche a Roma Radio, niente, non ne ha neanche lui. Io cazzo lo spenderti in euro, cazzo, ma... Oh lui, trucca fritta. Lo sto usando questa apparecchia 12 volt, l'ho cambiato con l'interruttore dietro, l'ho cambiato perché era un po' non so se l'aveva nei bucciucolla, che cos'era, per tenerlo a 2V, l'ho cambiato, l'ho messo interruttore nuovo, ce l'avevo già a casa, e praticamente lo sto usando a 12 volt, scalda molto meno a 12, a 2,20 scalda di più, infatti mi hanno detto di non usarla a 2,20, che c'hanno il trasformatore che si apparecchi dalla casa che fa partire tutto, se lo usi a 2,20, così è, se nulla ne sai. No, è stato usato sempre a 2,20, no, non lo so, però se mi stai dicendo che scaldavo hai fatto bene. Oh, tipo mi sento l'odore, già, non te l'avevo già detto io, ti ho detto io ce l'avevo uguale. È proprio il trasformatore a 2,20, era che bado, capite? E l'avevo regalato a Gianni, K2, assieme agli altri radio che gli avevo dato, capite? Usa la 12 volt che ti dura molto ma molto di più e scalda di meno. Perché scalda di meno perché il trasformatore interno ha meno modo di raffreddare, capitati, invece quello esterno raffredda meglio, c'è la ventola, quello che sta attaccato e tutto quanto, per quello lo scalda. Ma io vedo che va bene in entrambi i modi, è solo che scalda un po' di a 2,20. Infatti tu usa la 12, l'ho detto a me, c'è un inverter dentro, da 2,20 a 12, e quindi il trasformatore non agisce, non può mai scaldare, rimane freddo, stai usando la 12 volts, capito? Quindi usa la 12 che ti conviene, a me me l'ha crepato, stavo parlando, sei sudato, poi l'ho riacceso, l'ho attaccato a 12 volt, non andava neanche a 12 volt. E quindi l'avevo messo a parte, nuovo. L'avevo dato per cosa, per collezione già. Capito? Però io lo usavo a 2,20 e cazzo me l'ha cribato. Vabbè. Cosa hai detto Lucarie? Stavo parlando con il cane, ma... Stella. Bella, saluta Claudio. Sta saltellando? Sì. Aspetta, non ho messaggio. Che tu sei il rubare sciogliano? Sta pagando. È carino, l'ho visto. E almeno, diciamo che gli passa un po', non dico tanto, ma un po' il malumore per l'altro che gli è morto, gli passa quando c'è un altro cane. E ti basta, sì. Cane, è un grande impegno. È un impegno, ma quello che tu gli dai ti ricambia. È un impegno perché se devi andare fuori, tutte queste cose qua non ci vai, perché se ti porti il cane appresso devi rinunciare a fare certe cose, io per dire quando esco me lo porto appresso, anche dal buco sono andato a Plantamona e sono fatto quella camminata che c'è, bella è una bella camminata perché tutto è rettilineo, dalla rotonda sì la Maristella, tutta quella camminata lì è lunga, però non ho faticato molto. Maristella, voi gli state un braccio per un controllo. Maristella, buca, non lo so. Infatti ha detto bene, quando vai qua, io devo abbassare, va. O venite qua o mi state fracassando le balle in PMR. Ho abbassato il volume, quindi non mi chiami di più. Ho detto, hai detto bene quando sei qua, anche io quando esco qua a Sassari me lo porto, quando vado a Polotroce me lo porto, ma se devo andare come mi è capitato che dovevo andare fuori, capito, non posso lavarlo a rasura Dredino e quindi ci ho rinunciato, vabbè, pazienza. Avanti Black per un controllo. Io non ho capito chi sei perché non ti sento di radio, sei tutto saturo e non ho capito. Perché era in FM. Sei in FM? Io l'ascoltavo benissimo in FM. No, continuo a non capire. Ho capito, Luca, ho capito Gianni che... Non ho capito chi è. E Chioda Ruggerito, ciao Chioda Ruggerito, buonasera, dai. Sei un po' alla radio, ma io già ti capisco, dai. Io ti ho sentito abbastanza. K, avanti Luca, riprendi tu e fai girare. Già, perdonami, non ho capito come fai ad ascoltarlo. Si arriva più forte a me che a te, ma io non capisco la radio, non, è tutto saturo, ho capito. Come hai fatto a capire tu quello che stavo dicendo? Io non ho manco capito chi era. Io ascoltavo benissimo solo in FM. E Gianni dice che lo ascoltava benissimo, vabbè. Quindi dai, ho tu il controllo. Sono entrato per un controllo, ciao Claudio, se sei tu, buonasera. Non ti dico ben ascoltato perché io non ti ho sentito. La radio non ho sentito niente. Solo saturo a morte e basta. Ma glielo tu Gianni allora controllo. No, io non ho detto che lo sento benissimo, ho detto che era cupo, però lo ascoltavo, capivo cosa dicevo. Da cupo a saturo sono due cose diverse, mi già. Chi è questo? Vabbè, comunque, io non Gianni, Claudio, non ti sento del radio. Il segnale è il tuo, è 9:10, ma non... La radio non ti ho sentito, quindi per me il controllo non te lo posso dare. Buono segnale, ma radio è vero. Cambia radio, fatti sentire, siamo qua. Avanti, Luca. Sì, io guarda, per curiosità, sono passato in FM ed era perfetto. Cupo sì, ma perfetto. E allora in FM, io sono in AM. Forse Gianni voleva dire quello. Si è spostato in FM per ascoltare, non so, vabbè. Comunque io non avevo neanche capito che fosse lui. Va bene, Gianfranco, sì, no, Gianfranco sta facendo cose, ma te le prendi io per lui. Sì, vabbè, non era certo il massimo, ma già si capiva, io lo capivo, poi, no, non era un FM, era un AM, sempre un AM, lo capivo quello che diceva, però era molto, sì, quello sì, non era la solita radio pimpante che ha usato lui ieri per dire che aveva questa radio che era bella, andate, detto questo, Luca Manicumi, avanti, lasciami di Rugani e parla. Forse perché io sono vicino, quindi mi arrivava ancora più saturo, non capivo un Kaiser. È probabile, allora io già lo sentivo, cioè lo capivo, non è che ho detto che era bellissima la radio, no, questo no, però lo capivo cosa diceva, riuscivo a capire le parole. Vabbè, forse perché io sono troppo vicino, ma stava saturando ancora di più. Vabbè, se vuole entrare, siamo qua, vediamo se cambia radio. Avanti, Luca. Che vuoi che ti dica? No, io non lo capivo neanche io. Mia, va bene. Noi ci abbiamo la radio che non capisce. Vediamo ti dica. Lugariello. guerriero manicomio. No, capo, compa, mi stavo ascoltando di questa radio quadribanda, che conta 150 qualche cosa. Ma ce ne hanno ancora di queste radio? Eh beh, se sono negozi. Ah? Com'è che si chiama, che vado a vederla? TYD9008. TYD 9008, non ho rimanuto questa radio. È più piccola di quella che ho io come veicolare. Ma a quel prezzo quale banda? Ma riesco a me, lasciate cagata. A 152 euro, cazzo. Lasciate cagata, lasci il mio terreno. No, è stata già acquistata qua. Vista, provata, è veramente una... funziona bene tutto. Capito? Aspetta, ti giro il link. Sì, ma già vista la radio, ma l'ha fatto avere Luca. Cioè, quella persona là ce l'aveva, chi ce l'ha venduta lui? Sì, come sempre. Cioè, dico pareggi, a me non mi serve, non ci butto io 150 euro, ma una gaggata di genere. Non mi piace, ma non c'è niente di nulla. Cioè, è più piccola del mio, del veicolare chiuso in macchina. Cioè, Mobbe, Tensive, MFM, 0544, Autoradio, 500 watt, Mobbe, con connotazione, senza fili citofono. Senza fili citofono, ok, no, no, è stata, va benissimo qua, va benissimo, guarda. E la ventola rimane sempre accesa se non va verrato, capito? Da quando accendi la radio la ventola rimane sempre accesa, però come radio è di lusso, va anche 27, così che va benissimo. 27 solo un FM, ecco, già siamo un po' vedendo l'italiano. 27 solo un FM. No, è stata usata anche la M qua. Sto dicendo, ce l'ho presa io. Se poi c'è scritto, ma io l'ho presa e l'ho usata e provata qua. Sì, ma è un mezzo giocattolo, ma... Abbiamo mezzo giocattolo, è più piccola di quella del veicolare che ho io, la 701. La c'è mio da 30. È il clone dello Yaesu, quello vecchio, tu ricordi? Che era tribanda e anche quadribanda, oh clà, dai, mi aspetto, mi lavoro chi ha mai voluto subito. Via, e se mi rotto quello della Yes, alta radio, a carità. L'ho avuta. No, non mi interessano questi veicolari, sono giocattoli, ragazzi, non va. Questo è buono, c'è 50 euro per uno che lo vuole comprare. C'è un po' di tutto, ma un barometro da gada. Vabbè, gente mala. Vabbè, la pappignara. Ehi, stavo ascoltando prima, poi sono andato ad andare in farmacia. Sì, la stavo guardando quella radio, però Luca non ha visto che, a parte 152 euro, se tu metti la regione Italia, sono 32 euro di spedizione pure. Non è gratuita. Io lo vedo, sai perché? Perché sono registrato su AliExpress e mi compaiono direttamente i costi di spedizione in base alla regione, in questo caso Italia, cap. E secondo te io il 99% delle cose devo le prendo? Certo, è stato già acquistato, Marco, gratuita, se c'è scritto spedizione gratuita non te ne mettono spedizione, capito? Cioè, se te lo dice uno che l'ha già comprata, ma capito, te lo sto dicendo perché io l'ho già comprata. Ehi, ha registrato, e non solo, dipende dal venditore, dipende dalle offerte che fanno, anche ho visto che lo vendono in tanti su AliExpress, e i venditori sono vari, e i prezzi sono molto variabili, avanti al break. Ciao Chiodo, francamente è come satura, Nasina è satura, io prima non c'ero e sono rientrato adesso a casa, e ho fatto il break e sono entrato. Segnale ottimo, però 9 più 5 abbondanti.